facile, ma non riesco a scappare. Il mio cervello si è la corolla, mi avete illuso che ando bene. Toglietevi le munizioni e della brutalità, perché la mia mente si sta ribellando. Non ti consiglio di controllarti, perché sto scelto fuori controllo. Mi son venduto, mi son pentito, ora non voglio più uccidere nessuno. Basta obbedire, basta marciare. Non hai capito, è tutto sbagliato. Mamma non c'è e non ci sarà. Sacrifico questo, lo chiamerò. Parla di futuro e la mia libertà, perché la mia mente vuole cosciente. Io non voglio stare qui, non voglio uccidermi, non voglio esplorare, ma solo vivere. Lasciamo le storie vecchie, scatolato tutti i vecchi sbagli. Sto provando ad iniziare da sera, il sole al buio, però niente. La mia coscienza non è pulita e l'orgoglio traballa un po'. Mi sono vuoto e ho detto qualcosa e sono perso in una cupa dimensione. Ma non mi stacco mai.